Ieri abbiamo ritirato i campionatori e tutti i cittadini hanno ritirato i campionatori. La prima cosa che dico è che risultati importanti, diciamo, a nostra conoscenza c'è solo un campionatore mancante di quelli esposti in tutta la città, e quindi questo dimostra che i cittadini hanno avuto un grande, diciamo, attenzione a prendersi cura dei propri campionatori e quindi poi a poter effettuare tutte le analisi. Oggi iniziamo a raccoglierli, e quindi proprio a 20 pietre dalle 6:30 alle 8:30, con un'iniziativa che abbiamo chiamato Tappa il tuo campionatore, cosa che avrebbero dovuto fare tutti i cittadini appunto ieri e che a nostra notizia tutti hanno fatto, e oggi stappiamo, cioè per festeggiare la riconsegna abbiamo immaginato un momento anche ludico in cui riusciamo anche a condividere un po' di soddisfazione per questa campagna che nel coinvolgimento dei cittadini ha avuto una grande risposta. Quanti sono stati in totale i campionatori? Ci sono stati 340 campionatori consegnati, quindi avremo alcuni, sono stati, diciamo, messi in più di uno in alcuni luoghi per effettivamente avere anche un dato sulla variabilità del, diciamo, del dato e quindi sulla correttezza della misura, quindi avremo oltre 300 punti di analisi in città, diciamo, e questo significa avere una zonizzazione, un controllo sugli N2 molto molto dettagliato, che poi daranno frutti anche in termini di elaborazioni nei mesi e forse anche negli anni seguenti, perché ci sarà oggetto di studio per studiare i tanti fenomeni che possono accadere su questo inquinante, che, come dicevamo, è un inquinante che proviene per la maggior parte dal traffico veicolare, che può trasformarsi in particolato, che forma ozono, quindi che ha un percorso in atmosfera piuttosto complesso e quindi non facile da identificare e da studiare, seppur è noto, e gli studi ovviamente su questo ambito sono molto presenti anche in letteratura. Penso che il primo successo sia stata la consapevolezza dei cittadini, che hanno messo, sono impegnati a prenotarli, a prenderli, a accudirli per oltre 4 settimane, e quindi poi ora a riconsegnarli, e qui ora aspettano, immagino, come anch'io per il mio campionatore che ho messo vicino casa, i risultati per capire la qualità dell'aria che respiriamo. Dove verranno elaborati i risultati? Le analisi saranno fatte in Inghilterra, perché i campionatori sono stati comprati lì, e dentro il costo del campionatore c'era anche l'analisi certificata dei prodotti. Fra l'altro loro hanno anche i campioni di bianco, cioè di base dei lotti che hanno inviato a noi, e quindi potranno anche analizzare il bianco in maniera corretta. Poi le analisi invece, l'elaborazione la facciamo insieme al comitato scientifico e con il gruppo dei comitati che hanno organizzato l'attività. Volevo anche ricordare che oltre a questa sera a 20 pietre è possibile anche consegnare presso Dinamo dalle 7 alle 21 e presso il bar Marta, che è in zona San Donato, sempre allo stesso orario, da domani però. Chiediamo di consegnarli entro sabato, perché i campionatori hanno una scadenza in termini di necessità di essere analizzati entro 4 mesi dalla produzione, quindi è necessario, insomma, essere abbastanza tempestivi in questa fase. In settimana è uscita anche una notizia che riguarda uno studio del CNR e di un'università della California che riguarda la nebbia, in particolare in un territorio come il nostro, in cui la nebbia, insomma, è molto presente. Ecco, è stato scoperto, confermato, che la nebbia aumenta la tossicità degli inquinanti, in particolare del particolato. Sì, noi ci siamo concentrati sugli ossidi di azoto. In realtà quello che sappiamo da tutti gli studi è che via via che gli studi procedono, i limiti e la tossicità di questi inquinanti tende ad aumentare, i limiti ad abbassarsi. Quindi non ci sorprende lo studio fatto in California. Sappiamo che già l'OMS, per esempio, indica in 10 ppm il contenuto di PM2.5 oltre il quale si generano danni alla salute, mentre il limite europeo è 25 ppm e 20 ppm per il particolato PM10, mentre il limite, sapete, in Europa è intorno ai 40-50 ppm, a seconda che venga presa la media annuale o gli sforamenti giornalieri. Quindi già ora sappiamo che i limiti che abbiamo in Europa e che noi sforiamo sono molto molto più elevati di quella che è la sensibilità del nostro corpo a questi inquinanti. Voi avete intrapreso questa campagna anche un po' per integrare e collaborare, insomma, con i dati rilevati dall'ARPA. In questo mese di campagna la qualità dell'aria a Bologna com'è stata? Diciamo che la scelta è stata anche azzeccata, nel senso che avrete sicuramente notato come ci sia stata frequentemente pioggia e spesso anche neve, che in genere riducono la presenza di inquinanti nell'aria, in particolare del particolato, e infatti ci sono stati molti sforamenti, anzi quasi nessuno sforamento da quel lato lì questo mese, mentre devo dire che la presenza di ossidi di azoto e di NO2 in particolare è stata a livelli almeno quanto quelli dello scorso anno, e questo ci permette probabilmente ovviamente di analizzarli in maniera efficace e quindi di andare a verificare effettivamente quali siano le zone più problematiche. Quindi ci aspettiamo, insomma, dei risultati comunque significativi, ecco, dalla campagna.